Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo martedì 4 febbraio, mentre la nebbia saliva agli irticoli, ma nella bassa serie di più, noi ascoltiamo Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Iraq, nominato un nuovo premier, manifestanti scendono in piazza contro, ma riflettono sul da farsi. Un audio rivela che gli iraniani sapevano di aver abbattuto un aereo ucraino. I palestinesi vietano l'ingresso dei prodotti israeliani nel mercato palestinese ed Egitto appello agli imam perché predicano contro le mutilazioni genitali femminili. Malawi, annullati i risultati delle elezioni, ora si temono proteste. Messico, in pochi giorni ucciso un secondo attivista delle farfalle. Slovenia apre la prima moschea. Amnesty International, il Perù respinge illegalmente i venezuelani in cerca di proteste. Infine muore a 94 anni il veterano che fotografò l'esplosione della bomba atomica a Hiroshima. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dall'Arabia Saudita, che ha negato il visto alla delegazione iraniana per il vertice dei paesi islamici. Teheran furiosa risponde che i sauditi abusano della loro posizione. President of Ukraine says that a leaked audio recording proves. Confermato dal presidente ucraino durante una visita in Turchia, una registrazione trafugata di un pilota iraniano che parla con un controllore del traffico aereo a Teheran e mostra che la Repubblica Islamica ha saputo immediatamente di aver abbattuto un aereo di linea ucraino, uccidendo tutte le 176 persone a bordo, nonostante lo abbia poi negato per giorni. Una trascrizione della registrazione diffusa dalla televisione ucraina contiene una conversazione in persiano tra un controllore e un pilota l'8 gennaio. Negli ultimi due giorni sono state numerose le proteste di lavoratori e pensionati in diverse città iraniane. I manifestanti hanno chiesto che i loro stipendi e hanno protestato contro la cattiva gestione delle autorità del regime. Iraq. La nomina di Muhammad Alawi a primo ministro potrebbe essere la più grande sfida da affrontare dal movimento di protesta antigovernativo iracheno. Molti manifestanti si stanno chiedendo se continuare. Molti invece tra i leader delle proteste considerano Alawi troppo addetto ai lavori. La premiership che vogliono dovrebbe lasciare il posto a nuove riforme elettorali e un voto, e il premier dovrebbe essere indipendente da qualsiasi partito politico. Ma il leader radicale sciita populista Muqtad al-Sadr è un grande fattore in questa decisione, perché ha sostenuto con forza il movimento delle proteste e ora appoggia Alawi, invitando i suoi sostenitori ad abbandonare i campi di protesta. Non tutti se ne andranno, ma molti stanchi ci stanno pensando. Il blocco maggioritario di Sadr potrebbe assicurare che Alawi conduca ad elezioni, cosa che alla fine vogliono i manifestanti. Due volte ex ministro delle comunicazioni, Alawi è il cugino dell'ex primo ministro Iyad Alawi. Ha promesso che la sua priorità sarà quella di consegnare alla giustizia le persone coinvolte nella violenza contro i manifestanti. Sono almeno 550 i morti in 4 mesi. I capelli blu dei seguaci di al-Sadr intanto si sono scontrati coi manifestanti a Najaf, ferendone 17, 4 invece i feriti a Hilla. Siria, 150.000 sfollati nella zona di Idlib, dove le forze governative e i russi combattono contro l'ultima provincia in mano ai ribelli e jihadisti. Di fronte alla prospettiva che le forze di Al-Qaeda in Siria siano completamente invase, la Turchia ha rimandato truppe nella provincia di Idlib e sta attaccando l'esercito siriano, in teoria per difendersi, mentre l'esercito siriano stava cercando di rivendicare la città di Sarakeb da Al-Qaeda. la Siria ha sparato contro Al-Qaeda e invece colpito le truppe turche. Russia e Turchia avevano un accordo, ma il presidente Erdogan ha avvertito la Russia di non ostacolare l'attacco dell'esercito siriano. Erdogan ha minacciato di usare la forza militare venerdì e ora gli sta attaccando apertamente. Funzionari turchi hanno detto che nel corso dell'assedio di Sarakeb 8 soldati turchi sono stati uccisi. I media statali turchi hanno riferito che negli attacchi successivi hanno colpito 54 bersagli nelle vicinanze e ucciso almeno 76 soldati siriani. La Siria ha recentemente riconquistato la città di Marat al-Numan d'Al-Qaeda. La città, insieme a Sarakeb, si trova sull'autostrada principale che collega la capitale Damasco e la principale città settentrionale di Aleppo. Il governo siriano vuole chiaramente controllare questa preziosa autostrada, allontanarla da Al-Qaeda. Quando la Turchia ha negoziato una zona sicura Idlib con la Russia, lo ha fatto lasciando gran parte del territorio di Al-Qaeda all'interno della zona sicura. Mentre sarebbero dovuti uscire, non è mai accaduto e dopo mesi di combattimenti la Siria ha ripreso a dare la caccia a quelli di Al-Qaeda. I funzionari turchi lo considerano come una violazione, anche se Al-Qaeda non è mai stato ufficialmente parte di nessuno di questi accordi. Libano, il primo ministro Hassamdi ha approvato ieri il bilancio 2020 e ha trasmesso il piano al presidente Aoun, con 49 membri del Parlamento che hanno votato a favore del bilancio, mentre 13 hanno votato contro e 8 si sono astenuti. Le dichiarazioni di 17 pagine è stata inizialmente approvata dal Parlamento il 27 gennaio, nonostante la sessione fosse circondata da manifestanti antigovernativi determinati a impedire la convocazione dei deputati. Il piano approvato prevede scadenze da 3 a 100 giorni per realizzare le proposte politiche, prevedendo un deficit del 6%, una riduzione della spesa di 700 milioni di dollari e intende mantenere i servizi pubblici. Israele e Palestina, l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica ha respinto il piano di pace per il Medio Oriente di Trump. L'organizzazione, formata da 57 membri, che ha tenuto un vertice per discutere il piano, ha affermato che invita tutti gli stati membri a non impegnarsi con questo piano, a cooperare con l'amministrazione statunitense nella sua attuazione in qualsiasi forma. Intanto il ministro dell'economia palestinese Khalid al-Hosseini ha annunciato ieri il divieto d'ingresso dei prodotti israeliani nei mercati palestinesi. La decisione, che entrerà in vigore in 48 ore, sarà applicabile a verdure, frutta, bibite gassate, acque minerali e succhi israeliani. Al-Hosseini ha affermato che la decisione di vietare l'ingresso di prodotti israeliani è stata una risposta immediata al divieto israeliano di importare prodotti agricoli palestinesi. Secondo il rapporto del Ministero dell'Economia palestinese, il valore dei prodotti agricoli palestinesi esportati nei mercati israeliani ha raggiunto gli 88 milioni di dollari nel 2018. Il rapporto afferma inoltre che la Palestina ha importato prodotti agricoli da Israele per un valore di 600 milioni di dollari sempre nel 2018. Decine di coloni israeliani su trattori hanno attraversato la Cisgiordania diretti in Israele in una protesta per chiedere l'annessione immediata della Valle del Giordano. Egitto, l'ISIS ha rivendicato l'attacco di domenica scorsa contro un gasdotto nel nord della penisola del Sinai. Le importazioni di gas attraverso il Sinai del nord da Israele non sono state influenzate. Il Consiglio nazionale egiziano delle donne ha chiesto che vengano emessi avvisi sui pericoli delle mutilazioni genitali femminili durante i sermoni religiosi, dopo che una ragazza di 12 anni è morta dissanguata durante la procedura, che rimane diffusa nonostante sia stata bandita. La presidente del Consiglio, Maya Morsi, ha chiesto al ministro degli affari religiosi di chiedere agli imam di affrontare la questione nei loro sermoni e di sottolineare che la pratica, che si ritiene provenga dai tempi dei faraoni, non ha nulla a che fare con l'Islam. Che peccato hanno commesso quelle ragazze innocenti e giovani affinché possano essere uccise in questo modo? Libia, i rappresentanti delle due parti in guerra si sono riuniti a Ginevra per una commissione militare congiunta sponsorizzata dalle Nazioni Unite. 5 ufficiali nominati dal debole governo riconosciuto dalle Nazioni Unite, il GNA, e 5 nominati dall'esercito nazionale libico, l'LNA, del comandante Khalifa Haftar, stanno prendendo parte ai colloqui. I colloqui sono stati moderati dall'inviato dell'ONU Ghassan Salame, che la scorsa settimana si è scagliato arrestato contro giocatori stranieri senza scrupoli per essersi intromessi nel conflitto. Stai ascoltando Radio Bullets. Uganda, il premier israeliano Netanyahu ha incontrato il leader del paese, si sono accordati su una normalizzazione delle relazioni. Il presidente ugandese ha detto che sta valutando se trasferire l'ambasciata in Israele a Gerusalemme. Stessa cosa con il Sudan, ma il governo di transizione si è lamentato di aver saputo dell'incontro tra i due leader dalla stampa. Lunedì la Corte Costituzionale del Malawi ha ordinato una nuova elezione presidenziale dopo aver annullato i risultati di un voto che ha rieletto il presidente Peter Mutharika a maggio, citando diffuse irregolarità nel voto, compreso l'uso del liquido correttivo sulle schede elettorali. Il verdetto, che si teme provocherà tumulti nel paese tradizionalmente pacifico dell'Africa meridionale, potrà essere appellato da Mutharika, che in ogni caso sarà presidente fino a nuove elezioni. E ora andiamo in Kenya, dove 13 bambini sono morti e più di 40 sono rimasti feriti in un fuggi-fuggi quando hanno lasciato la scuola. Nel Kenya occidentale, ha raccontato la polizia locale, abbiamo perso 13 bambini in questa fuga e ne abbiamo altri in ospedale feriti, ha detto ai giornalisti David Kabena, capo della polizia della città di Kakamega. Abbiamo avviato un'indagine per stabilire cosa sia successo esattamente. La prima moschea della Slovenia è stata aperta nella capitale Lubiana ieri, dopo aver superato innumerevoli ostacoli finanziari e l'opposizione della destra. 50 anni dopo la richiesta iniziale di costruire, chi si opponeva al progetto, compresi quelli che hanno criticato il finanziamento del Qatar, hanno ripetutamente cercato di fermarlo, perfino con teste di maiali insanguinate lasciate sul sito. Il capo della comunità islamica, il mufti Nezdat Grabus, ha affermato che l'apertura della moschea è stata una svolta nelle loro vite. La Slovenia è l'ultimo ex stato jugoslavo a ottenere una moschea, rendendo Lubiana una capitale piuttosto che una città di provincia ai confini del mondo, ha detto in una conferenza stampa. I musulmani nella regione prevalentemente cattolica hanno presentato per la prima volta la richiesta di costruzione alla fine degli anni 60, mentre la Slovenia faceva ancora parte dell'ex Jugoslavia comunista. La comunità ha finalmente ottenuto il permesso 15 anni fa, ma ha riscontrato l'opposizione di politici e gruppi di destra, nonché problemi finanziari. La costruzione, iniziata nel 2013, è costata circa 34 milioni di euro, di cui 28 milioni sono stati donati dal Qatar, secondo Grabus. Situato in una zona semi-industriale di Lubiana, la moschea può contenere fino a 1.400 persone e costituisce il nucleo del centro culturale islamico di 6 edifici. Il Parlamento del Kosovo ha approvato lunedì un nuovo primo ministro dopo 4 mesi di contrattazioni, facendo sperare che i colloqui a lungo congelati con la Serbia possano riprendere. L'ex leader ribelle Albin Kurti e il suo gabinetto si sono installati solo un giorno prima della scadenza, contribuendo a evitare una crisi politica. Soprannominato il Che Guevara del Kosovo dai giornalisti negli anni 90, quando organizzò proteste studentesche di massa contro la repressione serba, Kurti ha giurato di affrontare l'economia e la disoccupazione, combattere la corruzione, introdurre 3 mesi di servizio militare obbligatorio. Saremo il governo dello sviluppo economico e dell'occupazione. E ha aggiunto che l'obiettivo è quello di creare uno Stato socialmente giusto. In ottobre, Vete Sromge e DLDK hanno vinto rispettivamente 29 e 28 posti in Parlamento, hanno inflitto una storica sconfitta al partito del PDK, guidato da ex comandanti della guerriglia che hanno dominato il Kosovo da quando ha dichiarato l'indipendenza nel 2008. Spagna, atterraggio di emergenza per un aereo dell'Air Canada con 128 persone a bordo per un problema di un danno a una ruota. Regno Unito, il governo inglese ha annunciato l'introduzione di una legislazione di emergenza per impedire alle persone condannate per terrorismo di essere rilasciate dopo aver scontato metà delle loro pene. La decisione è stata presa dopo 2 recenti attacchi perpetrati da ex detenuti recentemente liberati. L'ultimo episodio, quello di un radicale musulmano che ha ferito 2 persone nel sud di Londra, nonostante fosse sotto osservazione della polizia che poi lo ha ucciso. Russia, il gennaio più caldo, Mosca e San Pietroburgo per la prima volta con medie sopra lo zero. Cina 425 morti confermati, oltre 20.400 casi secondo la Commissione Nazionale di Salute. Ieri sono riprese le attività al minimo dopo le vacanze del Capodanno. Il problema del coronavirus, ferme le attività pari all'80% del PIL. La ripresa totale non avverrà prima del 10 febbraio. Crollano le borse cinesi. Appello per urgente materiale medico, servono maschere, tute, occhiali protettivi. Yan Cheng, un bambino cinese disabile morto dopo che il padre era stato isolato a causa del virus. Incapace di parlare, camminare o mangiare da solo, non aveva nessuno che lo aiutasse. Il padre era in quarantena dal 22 gennaio e ha pubblicato un accorato appello perché qualcuno aiutasse il figlio, ma è giunto troppo tardi. Il 29 gennaio il ragazzo di 17 anni è morto, si legge in una dichiarazione della contea di Hong'an. E centinaia di medici a Hong Kong hanno scioperato per chiedere più protezione dal contagio. La Lufthansa prolunga lo stop ai voli da e verso la Cina. Stato di Kerala in India dichiara lo stato di calamità per intensificare gli sforzi per contenere il virus nel sud del paese. Macao invece, sempre in Cina, chiude i suoi casinò per 2 settimane, togliendo linfa vitale all'economia della città. Stati Uniti alle ringhe finali in Senato per la difesa, accusa nell'impeachment di Donald Trump, che dovrebbe concludersi salvo sorprese con una assoluzione del presidente, che ha definito il procedimento una bufola di parte. L'aeronautica militare intanto ha registrato un aumento del 33% dei suicidi nel 2019, 137 piloti e civili dell'aeronautica si sono tolti la vita. John McLaughlin, veterano della Seconda Guerra Mondiale, noto per aver scattato una foto della bomba di Hiroshima, morto domenica, aveva 96 anni. Sebbene McLaughlin abbia trascorso 30 anni nei vigili del fuoco di Ashburn, era probabilmente più noto per aver fatto la foto dell'esplosione della bomba atomica in Giappone il 6 agosto 1945. Fotografo dell'equipaggio B-29, ha scattato la foto quel giorno dopo che il suo aereo stava erroneamente sorvolando la città. Messico. Trovato morto un secondo attivista delle farfalle, Raúl Hernández Romero, era alla guida della riserva della farfalla Monarca, che è anche un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La sua morte è avvenuta pochi giorni dopo la scoperta del corpo del collega attivista Homero Gómez González. Entrambi sono stati uccisi. Il disboscamento sia legale che illegale, nonché il turismo, l'agricoltura e l'estrazione mineraria sono tutti settori attivi nell'area della riserva e minacciano il benessere delle farfalle e la stabilità della loro migrazione. Ci sono anche bande di droga, rivaline attive nella zona che si combattono regolarmente per le migliori rotte di contrabbando. E concludiamo con il Perù, che respinge illegalmente i venezuelani in cerca di protezione. Il Perù sta tradendo la sua tradizione di solidarietà con i venezuelani in cerca di protezione e ora sta deliberatamente respingendo le persone alla frontiera, ha rivelato ieri Amnesty International in un nuovo rapporto. In cerca di sicurezza al Perù. Bolognese perché lo scorso weekend al Sant'Orso la 4 tra medici e infermieri del pronto soccorso sono stati vittime di un'aggressione e non è il primo caso che si registra, al punto che le aggressioni al personale sanitario sono diventate una vera e propria piaga a livello nazionale. La nostra Teresa Fallavolit ha intervistato Gaetano Alessi della FPCGL, sindacato CGL di categoria. Partirei un pochettino dal principio. Vero è che quelle che noi poi commentiamo di più sono quelle, le violenze che avvengono nei pronti soccorso, perché è quello che poi ti fa esplodere l'emergenza, ma la violenza sugli operatori sanitari, verbale e fisica, è un po' dappertutto in tutti i reparti. Ed è aggravata negli ultimi anni da una condizione sociale nel quale l'aggressività è aumentata e sta continuando ad aumentare sempre di più. Quindi l'idea che in questo momento i pronti soccorsi, tornando a parlare di quella struttura, siano diventati l'unica risposta sociale a una richiesta di attenzione è il tema principale. Quali sono quindi i fattori alla base di queste aggressioni? Da cosa dipendono? Da un aumento della violenza generale nel pubblico oppure ci sono significati più profondi? Guardi, lì in realtà non regge più il sistema sociosanitario della città, perché tornando al caso dell'altra sera, i 3 clochard in un pronto soccorso non ci dovevano neanche stare, perché dovevano essere intercettati dai servizi sociali del comune molto prima di arrivare lì. Quindi se io sono nelle condizioni di dover andare in un pronto soccorso per stare al caldo, cosa che poi avviene ogni sera, poi la sera purtroppo è sfociata in un'azione di violenza, perché il comune, perché la città metropolitana non mi mette le reti di protezione che mi permettono di andare in un dormitorio in qualche altra parte, finisce che poi prima o poi il caso di violenza esploda. Se vogliamo parlare del caso dell'altra sera, poi c'è un tema di violenza diffusa che è molto più ampio. Vero è che 20 anni di promozione per cui il dipendente pubblico è un fannullone non aiuta assolutamente il clima all'interno dei reparti. Lo ripeto, valga per un pronto soccorso, valga per un ambulatorio, valga per i centri di salute mentale. Credo che in questo momento si stia abbandonando l'operatore sanitario a se stesso. Quali sono le azioni messe in campo finora per cercare di ridurre queste aggressioni? Noi diciamo quello che abbiamo fatto come FPCGL di Bologna. Noi abbiamo cominciato con un questionario che chiedesse all'operatore sanitario quale fosse la sua percezione. Sono venuti fuori dei dati meravigliosi, tutti convinti che si chiedesse maggiore presenza di polizia, invece si chiede maggiore formazione, maggiore comunicazione all'esterno. Il 16 ottobre abbiamo fatto una campagna rivolta ai cittadini dicendo che l'operatore sanitario, il dipendente pubblico, è un patrimonio di tutti, anche costituzionale, e pochi giorni fa abbiamo incontrato il direttore generale Chiara Gibertoni, che in questo momento è il direttore generale della OSP, ma anche il commissario dell'azienda ADS, per chiedergli un tavolo interaziendale, perché questa problematica o si ragiona su tutti i presidi ospedalieri e si coinvolgono tutte le istituzioni, partendo da chi garantisce i servizi sociosanitari, in questo caso la città metropolitana, o noi saremo sempre lì a commentare le emergenze. In questo caso, quando la violenza è già avvenuta, commentiamo solamente qualcosa che c'è già stato. Lei come risponderebbe a chi sostiene appunto che sarebbe necessario aumentare il numero di guardie giurate all'ingresso degli ospedali, pronti soccorsi? In questo caso sarebbe già perfettamente inutile, perché la violenza è già avvenuta. Riguarda le future? Si fa una grandissima opera di prevenzione. Oppure diciamo che ogni volta, anche se ci fosse stata una guardia giurata in più, sarebbe cambiato praticamente nulla. Quindi lì o si fa una grande opera di prevenzione nel quale si coinvolgono cittadini, utenza e istituzioni, oppure se dobbiamo commentare l'avvenuta violenza una volta che avviene, diciamo che abbiamo già perso. Poi sentivo di dare le pistole elettroniche in mano a qualcuno, i giubbotti, la dottoressa Gilbertoni voleva piazzare stamattina, ma è inutile, perché in quel caso ci siamo già rassegnati all'idea che qualcuno all'interno della struttura ospedaliera debba essere picchiato. Quali sono le azioni che metterete in campo voi come CGL o la struttura ospedaliera per prevenire in qualche modo o fare campagne di sensibilizzazione? Io non so cosa faccia la struttura ospedaliera, perché ancora ci deve convocare. Noi abbiamo chiesto un aumento di personale all'interno delle strutture e anche dedicato. Se la notte in un pronto soccorso come quello del Maggiore ci sono solamente 2 medici in un pronto soccorso in cui ogni giorno passano dalle 240 alle 300 persone, capirete che un po' di nervosismo per chi aspetta tanto si può anche creare. Un aumento di personale dedicato. Se dentro quel pronto soccorso 2 sere fa ci fossero stati educatori e assistenti sociali ad approcciarsi con la persona in difficoltà, probabilmente lo scatto d'ira non ci sarebbe stato. Strutture adeguate: noi abbiamo strutture ospedaliere pensate a 20 anni fa, è cambiato il mondo, è cambiato anche la persona che va dentro l'ospedale. Grande campagna culturale, perché nessun cittadino può sentirsi libero di insultare qualsiasi persona che in quel momento sta lavorando. E ultimo punto, nei luoghi sensibili come i luoghi più avanzati, come pronti soccorso, i 118, magari lì se la prefettura e la questura dessero un tempo di reazione più veloce quando ci sono le chiamate, sarebbe un momento di garanzia in più. Ma personale, strutture, formazione, quello sono le basi sul quale noi riusciamo a superarlo il problema. E soprattutto nessuna istituzione scarichi sulle altre questo tipo di responsabilità, perché la responsabilità ce l'abbiamo. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. E 28 minuti, rassegna stampa di Radio Fujiko all'interno di Radio Zannardi, che ovviamente si confronta, come fa poi più o meno tutta la stampa, con la questione del coronavirus, tra questioni scientifiche, tra pregiudismi, razzismi, gente che cavalca strumentalmente in modo ignobile paure e il tema economico, di cui partiamo oggi perché c'è anche il rischio paradossale, ma non troppo in un mondo di finanziari, di liberismo finanziario, che la crisi del virus faccia più morti con la finanza che non con il batterio. Cina, il virus abbatte le stime di crescita. Emergenza sanità è del Sole 24 Ore, parlando di economia e finanza, partiamo dal foglio rosato di Confindustria. Dunque, prima si parte dal primer Conte. Lo studio misura di sostegno alle imprese italiane più coinvolte, perché l'Italia ha un grande import-export con la Cina e c'è anche molte aziende che stanno proprio nel paese della Grande Muraglia. La crescita 2020 è al 5,4%, fermi 24 distretti industriali, da cui arriva l'80% del prodotto interno lordo. L'OPEC è pronta a ridurre la produzione di petrolio, quotazione in caduta. E tutto questo naturalmente non può non avere riverberi in tantissimi paesi, perché sono all'Africa, gli investimenti cinesi in Africa, perché sul tonfo della borsa che viene registrato da molti giornali, per esempio La Stampa, in fuga dall'inferno del virus, i racconti alla Checignola, ma i mercati sotto pressione, da Shanghai a Tokyo precipitano le borse, i petroli ai minimi da un anno, nonostante che la banca centrale cinese abbia stanziato per far fronte una sorta di quantitative easing orientale, per far fronte alla prevista batosta, ben 150 miliardi di yuan, che non si può neanche immaginare che cifra sia, ma una cifra mostruosa, con le iniezioni di liquidità cinesi da Pechino che non hanno impedito il tonfo della borsa. Ma oggi stamattina leggiamo che rientra sulle borse cinesi l'allarmismo legato alla diffusione del coronavirus. Dopo un avvio negativo, Shanghai e Shenzhen questa mattina hanno invertito la rotta e chiuso in rialzo. Anche lo yuan ha recuperato, evidentemente gli interventi, così le forti emissioni di denaro contano. L'indice composito della borsa di Shanghai ha aperto un calo di oltre il 2%, la borsa di Shenzhen con un 3-3,48, per poi recuperare le perdite e chiudere in positivo. Shanghai si è attestata a più 1,4%, Shenzhen a più 1,8%. E intanto, dopo l'intervento di ieri con l'emissione di 163 miliardi di dollari, questa è la cifra tradotta in dollari dagli allo yuan, nuove iniezioni di liquidità per 57 miliardi, quindi questi sono investimenti fortissimi. E c'è naturalmente le previsioni sulla crescita di investimenti, si attesta adesso su un 2,9%, che farà ben pallidire di invidia l'Italia, ma in realtà precedentemente era un più 4,2%, quindi un calo pesantissimo. E poi abbiamo gli avvoltoi, perché giustamente Pechino raccusa gli Stati Uniti, avete creato diffuso il panico, già gli Stati Uniti hanno parlato di 100.000 morti, tanto per buttare una bomba in una situazione già così pesante. Ma sentiamo l'affermazione di Wilbur Ross, segretario di Stato, anzi segretario al commercio nordamericano, questo Wilbur Ross, un uomo di Trump, e dice: il virus è un motivo di riflessione in più per il mondo del business, può essere un'opportunità di riportare posti di lavoro in America. E questa è proprio la prospettiva da cui anche il Manifesto guarda il coronavirus, con il titolo di apertura di oggi: l'influenza del mercato. Con il tonfo delle borse di Shanghai e Shenzhen alla riapertura dopo il Capodanno, un crollo che appunto lascia presagire effetti negativi non solo sull'economia cinese, ma sull'economia mondiale, come racconta poi nelle pagine interne il Manifesto. Ieri peraltro è intervenuto di nuovo il presidente Xi Jinping dopo 3 giorni di silenzio, con appunto queste difficoltà che naturalmente hanno rallentato gli scambi commerciali, nuove limitazioni anche a Hong Kong, dove lunedì gli operatori sanitari hanno scioperato per protestare contro le misure troppo soft messe in campo dal governo locale. C'è naturalmente anche un risentimento che monta nei confronti delle barriere internazionali, è un risentimento che ritroviamo anche nei nostri confini, nel nostro perimetro, perché ad esempio c'è il leader della comunità cinese di Milano, intervistato dalla Repubblica, Francesco Wu, in Italia da quando aveva 8 anni, imprenditore laureato in ingegneria, che non manca di non nasconde il proprio rammarico. Che delusione così discriminano i nostri figli. Per chi come me si è sempre battuto per la convivenza di questo clima, quello che sta accadendo è spaventoso, anche perché appunto la psicosi virus dai mercati rimbalza, almeno a casa nostra, soprattutto a scuola, come dice il titolo di apertura del Carlino, con questa proposta delle regioni leghiste di isolare i bimbi che rientrano dalla Cina. Devo dire che a questo si accompagna una guida da parte del Carlino, ma c'è anche sugli altri giornali, su tutte le bufale, che ed è un corollario davvero impietoso sulle bufale appunto che stanno circolando in questi giorni, mentre dal punto di vista anche economico della piccola o media economia italiana, mazzata in Italia su hotel e ristoranti appunto per quanto riguarda il virus che ha messo già KO i mercati asiatici. Ma dicevamo appunto le scuole, perché il giornale ad esempio apre con questo titolo: scuole sbarchi e rissa sul virus, quindi subito il riverbero politico interno, regioni del nord contro il governo, mentre per i migranti è pronto a scattare l'allarme se il contagio dovesse arrivare in Africa. Finora appunto in Africa non si sono registrati casi, e il giornale sembra non attendere altro, devo dire con una certa quasi impazienza. A Pechino studiano 80.000 africani, rischi dai migranti, quasi a dire com'è possibile che non ci sia stato nessun caso. Dalla Repubblica: bambini dalla Cina fuori dalle scuole, dicono i governatori leghisti. Ma devo dire che non solo bambini, ci sono anche ragazzi invece italiani che restano fuori, perché è rientrato appunto questo aereo dalla città di Wuhan, però è rimasto lì un 17enne di grado che era in Cina per uno scambio culturale e che si è ritrovato poverino da solo all'aeroporto prima di prendere l'aereo, insomma gli hanno misurato la febbre, quindi è rimasto al palo e soprattutto è rimasto lì da solo. E quindi oggi Repubblica descrive la paura del contagio anche attraverso la storia appunto di questo liceale rimasto appunto a Wuhan. L'Avvenire parla di psicosi e di vieti in questa vicenda, perché c'è anche una fantasia popolare che si innerpica nella collina della paura. Nel centro di tutti i colori, al ministero del telefono verde, racconta il Corriere, 1600 chiamate folli al ministero. Una tra queste: ho un serpente in casa, rischio? Signora, se è un cobra o un mamba sette passi, qualcosina sì. Comunque, oppure ci sono quelli che ne approfittano per delle battute, loro le chiamano battute, parlo di La Russa. Usate il saluto romano contro il contagio. Polemiche sulla Russa. Nonostante l'ironia, alla faccia sai che risate. Non è piaciuto il tweet di Ignazio La Russa sull'allarme coronavirus. Non stringete la mano a nessuno, il contagio è letale. Usate il saluto romano, antivirus e antimicrobi. Così La Russa, che poi dice no, ma non, mi scuso, una battuta, fa sapere al suo mondo fascistone che fa davvero ribrezzo, è caso di dirlo, questo utilizzo cinico dei famosi quattro governatori leghisti che dicono anche i bimbi vanno isolati, perché questi evidentemente vogliono fare presa sul senso di protezione e di paura dei genitori, che a volte al sopravvento scavalca ogni razionalità e naturalmente porta consensi. Scuole, governatori del nord, come già leggeva Piero, anche i bimbi vanno isolati, gli italiani rientrati stanno bene, questo è il Corriere. La mossa dei governatori leghisti sul virus, fuori dalle classi, bimbi tornati dall'Asia. Lettera di quattro presidenti al ministro Speranza, famiglie preoccupate, Zingaretti reagisce, assurdo, i voli sono già stati sospesi. Quindi è una manovra del tutto così per farlo sapere sui giornali. Si diceva appunto paure, pregiudizi psicosi, ombre cinesi, il Carlino di Bologna che va a vedere i ristoranti cinesi a picco, incassi in calo del 50-70%, Zhang titolare della pagoda la Bolognina, è dura, vengono solo degli abitué. In via dei Giudei clienti quasi tutti orientali, ma spuntano cene di solidarietà. Questo è il quadro. Poi abbiamo l'epidemiologo, numeri di contagi falsati potrebbero essere 150.000, potrebbe essere molte cose, ma la letalità è molto bassa, quindi c'è questa paura della pandemia. In particolare si dice per l'Africa, ora è rimasta fortunatamente immune da questo virus, ma se dovesse mai arrivare nel grande continente nero, date le già presenti difficoltà e condizioni sanitarie degli abitanti, potrebbe essere davvero un grande problema. Comunque l'altro tema è quello che segnala Libero e che abbiamo notato anche noi, devo dire, in questo caso Libero è un po' in sintonia, strano ma vero: precari isola il virus, ricercatori trattati in modo scandaloso. Questo è perché quella che ha trattato il virus è una ricercatrice che altrove avrebbe dei tappeti d'oro, da noi invece è precaria. Anche Contropiano, giornale online comunista, dice: coronavirus e lacrime coccodrillo per i poveri ricercatori precari, tra virgolette, durano un giorno e poi si torna tutto come prima. Nel frattempo speriamo che abbia un seguito e che non sia, appunto, come dice il pessimismo di Contropiano. Il ministro della salute, che è Speranza, propone l'assunzione a tempo determinato di 3.500 precari. Beh, sarebbe un'occasione per riparare a un torto ormai durato fin troppo, ma anche noi abbiamo qualche dubbio che succeda. Sì, allora anche il giornale, a proposito del tema della ricerca, è indignato. Perché? Vediamo questo titolo. Il ministro Speranza cavalca i precari, assumiamone 35.000. Il ministro è la ricercatrice Cococò dello Spallanzani, ricominciamo a investire sulla sanità. Che messa così, francamente, non mi sembra come dire, cavalcare o fare o comunque una misura così disdicevole. E su questo tema anche Repubblica oggi dedica ampio spazio, perché c'è un'intervista al ministro dell'università Gaetano Manfredi, ministro da poco dell'università, il quale naturalmente è chiamato in qualche modo a rispondere del tema della ricerca e soprattutto dei ricercatori, perché qui alcune storie vengono raccontate dalla Repubblica, in particolare quella della ricercatrice dello Spallanzani che ha isolato il coronavirus, Francesca dal Molise alla lotta al virus, il laboratorio per inseguire un sogno. La ricercatrice dello Spallanzani, improvvisamente eroina d'Italia e della sua regione, il Molise, è appunto 31enne da poco, una ragazza super smart che appunto da un po' di tempo si muove appunto sul filo del precariato. E allora il ministro Manfredi però assicura: mai più 18 anni di precariato per entrare in Ateneo. Che messa così non è che sia proprio confortante, perché sotto i 18 ci sono i 17, i 16, i 15, quindi non so, magari il ministro potrebbe anche assumersi qualche impegno un po' più probante. Questo tema ovviamente affrontato anche dal Carlino, perché la psicosi appunto arriva a scuola, ma come dire, dai banchi di scuola rimbalza poi nelle aule universitarie. E allora anche appunto dal Carlino le promesse appunto del ministro, che da questa vicenda insomma trova l'occasione appunto per promettere una diversa impostazione, soprattutto dei tempi. Insomma, tra, come dice, l'avvenire, tra psicosi e pregiudizi, il tempo aggiunge, il virus è diffuso dai giornalisti. Avete chiamato il chiodo chirurgo per una cura di qualità, quando vi ha visto per voi spazzato, portatelo al lazzaretto. Da quel momento è incominciato il vostro lento declino. I parenti invidiosi facevano progetti su come spartirsi l'eredità. A me i bots! Io voglio i libretti al portatore. E io la lavatrice e il ferro da stiro. Arriva tu. Dico spargono di un guento, il mondo sarà più lento. pubblico spargono di un puerto. Il mondo sarà virulento. Arrivano gli untori. Gli untori. Gli untori. Gli untori. Gli untori. Arrivano gli untori degli atroci, ma parliamo del governo, perché se si fa i lavori a metà si rischiano davvero di fare dei disastri incredibili. Per esempio parto dalla nuova legge del taglio dei parlamentari, che se non viene corredata da una riforma elettorale adeguata, da un altrettanto adeguato taglio dei collegi, come ci racconta nella simulazione il Corriere della Sera, con la nuova legge la Lega e Fratelli d'Italia da soli, quindi senza Toti, senza Berlusconi, senza nessun altro, 205 deputati su 400, quindi sarebbe un maggioritario terrificante. Questo è il quadro. Poi c'è l'altro tema dei pasticci delle pensioni, per cui chi lavora ed è a tiro dell'essere quota 100, costa 100,2, 103.100 che è la nostra frequenza, ma c'è tutto di più, non sa cosa succederà il prossimo anno. Pensioni, il governo apre i giovani, ora serve un assegno di garanzia. Clima positivo nell'incontro con CGIL e CISL, si parla da una base di 780 euro mensili. Naturalmente questo è il primo incontro che si racconta alla stampa Economia e Finanza, poi dopo naturalmente quando si va nel concreto, cioè no, non si può, come da la montagna partorisce un topolino, magari anche dopo, come è successo con il reddito di cittadinanza, che invece di essere un sussidio per disoccupazione è diventata una cosa strana, forza di limarlo qua, limarlo di là. Poi naturalmente il primo corno che c'è sulla strada del governo, che rischia di fare saltare tutto un meccanismo sempre in bilico, che rimane in piedi unicamente perché in bilico, questo è il paradosso, è quello. Zingaretti media sulla prescrizione, e quindi parla della prescrizione, confida in un buon compromesso. Il PD si mette, diciamo, in mezzo tra Italia Viva e 5 Stelle in questa prova muscolare delle due forze politiche. Palazzo Chigi prepara il vertice risolutivo, Renzi rilancia il lodo Annibali, ma Crimi rispettate i patti. Anche qui sulla prescrizione è chiaro che la prescrizione come oggi è una barbaria, perché chi la lunga la scappa, e quindi chi ha un forte, che ha i soldi può pagarsi un bel collegio difensivo, la lunga e poi la scappa, ma è anche vero che bisogna impedire i processi eterni, per cui rimane una gogna che non si chiude mai su dei cittadini. Quindi bisogna fare la riforma modellandola in qualche modo. Ma leggiamo chi punta su poi sulle prescrizioni. Lega, Russi e PM, altri 6 mesi per indagare su Savoini, ancora in corso esame di PC e cellulari sequestrati, il leader è un tema che non mi appassiona, intanto il punto pensa che la lunga la scappa. Ma veniamo al vicepresidente del CSM, Ermini, che in qualche modo dice alla giustizia serve una riforma organica, sbagliati gli ultimatum, i partiti collaborino, e sui tempi dei processi si rischia di aggravare la situazione. Questo è il quadro. Il Fatto Quotidiano, tutto preso sulla linea Bonafede, tutta Europa e USA, i paesi barbari senza prescrizione. Devo dire che gli USA come barbari non è certo, cioè, non è un bel esempio su tutto quello che succede. Renzi, Salvini uniti a Forza Italia, gli avvocati contro le barbarie, ma il sistema all'italiana fermato da Bonafede, ce l'ha solo la Grecia. Questo, ma sulla possibilità di trattare sulle cose del governo, Marco Travaglio parla di intransigenti o coglioni, e parla di 5 Stelle. C'è chi pensa che l'intransigenza significhi non parlare con nessuno, non sporcarsi le mani e non perdere la virginità, e chi pensa che si debba parlare con chiunque se degno e utile a combattere l'avversario principale. Dunque bisogna innanzitutto decidere chi è l'avversario principale. Per farlo occorre un'identità con forte. I 5 Stelle identità ce l'hanno nel DNA, anche se sembrano essersela scordata. Infatti pencolano tra chi vede l'avversario principale in tutti i partiti e chi lo vede nel centrodestra e chi lo vede nel centrosinistra. Le sardine un avversario principale ce l'hanno, il salvinismo, ma non hanno un'identità netta perché non se la sono voluta dare. Finora hanno svolto un servizio prezioso, riempire le piazze disertate e desertificate al centrosinistra, occupate in esclusiva dal centrodestra, e sono tenute a debita distanza dalle questioni più scottanti, perché non scontentare nessuno e non dividere il fronte, limitandosi a vaghe deplorazioni del populismo e del sovranismo, a una generica predicazione del bon ton e delle sardine. Poi parliamo più avanti. Questo è quello che succede secondo Marco Travaglio. E allora guardiamo anche dal manifesto: la mina prescrizione, Bonafede isolato, la rissa è tra PD e Italia Viva, renziani pronti a votare con la destra ma non sono determinanti, con Orlando per il PD che replica: non fosse per voi 5 Stelle avrebbero dovuto già mediare. Mediazione che appunto secondo Repubblica non è semplice, stavolta Conte non sa come mediare, idem contro Bonafede, Renzi e Forza Italia pronti ad affossare la riforma al Senato. E visto dal versante Movimento 5 Stelle, Di Maio offensiva contro le intese col PD, in difficoltà l'ala filo Conte, mentre a proposito di 5 Stelle Casaleggio difende il versamento dell'obolo da parte dei parlamentari, ribadendo che i 300 euro al mese versati appunto a Casaleggio Associati servono e come. Di Maio che peraltro nel retroscena del giornale lancia un messaggio ai 5 Stelle: qui comando ancora io, lo zampino, il suo zampino dietro il no al patto col PD in campagna. Quindi un Di Maio appunto nell'ombra, secondo quanto racconta oggi il giornale. Intanto oggi invece a Roma si riuniscono i nazionalconservatori. Non ci sarà Salvini che ha dato forfè, mentre appunto l'evento curato per l'Italia da Nazione Futura vicina a Fratelli d'Italia, oltre alla Meloni vede anche il premier ungherese Orbán, e poi Marion Le Pen e il teorico della destra israeliana Yoram Hazon, insomma un parterre di tutto rispetto, di grande prestigio appunto per i nazionalconservatori. Salvini non c'è perché forse perché è impegnato invece nel risolvere queste beghe un po' di famiglia. Leggo infatti dalla Repubblica: Salvini archivia Bossi, i padri nobili nel partito non esistono più. L'ex ministro risponde alle critiche del senatore: al sud siamo decisivi, anche se a Palermo, ci segnala l'inviato di Repubblica, viene contestato e annulla la sua visita al mercato di Ballarò. Negozi chiusi e striscioni di protesta contro la calata in Sicilia del capo leghista. C'è un'intervista al commissario della vecchia Lega Nord, Igor Jezzi, che dice: il senatore sbaglia, ma noi dobbiamo cambiare, nei grandi centri siamo in difficoltà. Quindi ammette questo, diciamo un po' un'apertura su alcune delle considerazioni di fondo appunto che erano state mosse da Bossi. E anche Repubblica intanto ricorda che la destra europea va dalla Meloni, ma il leader della Lega diserta. Devo dire che Orbán non è andato solo al vertice, perché è stato ricevuto anche dal premier Giuseppe Conte, che lo ha ricevuto a Palazzo Chigi. A proposito di Lega, come voleva si dimostrare? Apre il Corriere di Bologna, l'addio di Borgonzoni diventa un caso. La signora che concorreva come governatrice Emilia Romagna perché era tutta presa la nostra regione, dice: non ci vado neanche, vado in Senato, rimango a fare la senatrice. Salvini la vuole a Roma, PD 5 Stelle, ma anche Forza Italia, la base leghista, protestano. Perché appunto si invera la previsione facile, Bonaccini, che appunto era una donna, era un uomo in questo caso, di paglia. Bernardini, Manis Bernardini, che ha avuto un passato in Lega e certamente non è particolarmente uno che abita in luoghi come Lotta Continua o altro dell'estrema sinistra, dice che scegliere di abbandonare sarebbe l'ennesimo errore, l'ennesima volta in cui avremmo buttato via del tempo. O ancora in Facebook un pensiero espresso da un leghista: fare una battaglia per vincere la regione e poi decidere di rimanere al Senato credo che abbia dimostrato il mancato rispetto per quei milioni di Emiliano Romagnoli che l'hanno votata. Beh, un po' se lo meritano, lasciatemelo dire, questa cattiveria. Questa è la solita politica non cambiamento. Firmato un elettore leghista. Fratelli Italia non commenta. La Gelmini dice: ma ne prende atto. Insomma, c'è un grande imbarazzo. Mentre per quanto riguarda il centrodestra, per quanto riguarda Viale Aldo Moro, parliamo della coalizione vincente, rompicato Bonaccini, la carica dei bolognesi per un posto in giunta, in gioco anche gli equilibri in vista del voto per il sindaco. Quindi ovviamente quando si va poi al manual Cincelli tutto si fa più complesso, ma è stato promesso fine settimana l'elenco degli assessori e noi aspettiamo chiaramente esattamente questo elenco. Nel frattempo ritorniamo alla cosa generale col Riformista, quindi siamo in casa renziana. E infatti si parla dei colpi di PG di Milano e dei di Renzi, prescrizioni torna in bilico tutto, travaglisti, dice Sansonetti, direttore Piero Sansonetti, travaglisti intesi come 5 stelle furiosi. E quindi se Celentano diceva una carezza in un pugno, Renzi che dice sto col governo ma guai la prescrizione, è un pugno in una carezza. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà, mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo. Così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso, non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Va, va, va, vai, vai, vai, boom, va, va, vai. Stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà, va, va, va, vai, vai, vai, vo, va, vo, vai, vai. E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso. Adriano Celentano, una carezza in un pugno. Veniamo allora alle sardine con Cesare Zapperi. Sardine, c'è il primo strappo dal Corriere da Roma, un attacco ai vertici. Lui è Ogongo, Stefano Ogongo, attivista di Roma. Ingiustificabile la foto con i Benetton, ma il movimento lo sconfessa. Le sardine di Roma si dissociano completamente da quanto scritto da Ogongo, che agita in solitaria ed esprime unicamente il suo pensiero. Ogongo, ricordiamo, è quello che mise in imbarazzo ampiamente il movimento delle sardine e i suoi vertici quando invitò anche Casa Pound alla manifestazione romana, poi appunto sconfessato anche quella volta. Non ha mai fatto mistero, vuole fare un partito per sé e forse qualcuno pensi maligno coglie l'occasione, occasione colta anche dai vari nemici delle sardine, sono tanti che non si accontentano ed era prevedibile delle scuse del movimento che ha chiesto scusa per la propria ingenuità di essere caduto in una fototrappola con Benetton. Anche Lorenzo Giarelli del Fatto Quotidiano torna su quell'argomento, Benetton ingiustificabile, tra sardine e aria di scissione, il referente della capitale chiude i rapporti con i fondatori dopo la visita a fabbrica e denuncia la censura dell'alto nelle discussioni del web. Ma questo naturalmente non ferma le sardine, perché a Palermo sono scesi di nuovo in piazza per contestare l'arrivo di Salvini. Quindi nel frattempo Ogongo, per quanto è stato sconfessato dalla base delle sardine romane, va avanti e ha fatto una nuova pagina Facebook con il nome 6.000 Sardine Roma, che sostituirà quello delle sardine di Roma. Questo fa capire perché c'era il copyright su sardine prima qualcuno volesse utilizzarlo a uso consumo. Sì, però naturalmente queste polemiche trovano ampio spazio oggi sui giornali, dal Manifesto: strappo del capo delle sardine romane, ma resta solo. I ragazzi del gruppo romano sconcertati ma uniti si dissociano da Ogongo, anche dal Carlino che vede le prime crepe. Il movimento sbanda, le sardine soffrono le correnti, liti e dissapori, aria di scissione, ma il marchio è registrato. E anche dalla Repubblica: sardine, il leader romano se ne va. I fondatori replicano: non lo segue nessuno. Il 16 in piazza comunque a Roma. E nel frattempo abbiamo, oltre, come dire, alle questioni, appunto ai movimenti legati alle sardine, visto che parliamo di Benetton, andiamo a parlare di trasporti, perché da un lato leggo dal Manifesto nelle pagine Lavoro ed Economia: lavoro festivo, autogrill, che ricordo è una multinazionale della ristorazione autostradale a maggioranza di proprietà della famiglia Benetton, sanziona chi ha chiesto un giorno di ferie a Natale. Quindi chiedevano solo di potersi godere in famiglia una sola festività natalizia, ma insomma per autogrill era troppo. Poi dalle strade invece alle ferrovie, perché una fotografia plastica dello squilibrio che c'è in Italia lo si ha guardando i dati appunto del sistema ferroviario, e lo fa oggi appunto il Manifesto in una sua pagina interna. Non è un paese per pendolari, su questo non credo che ci fossero pochi dubbi. Italia ad alta diseguaglianza, è un rapporto di Legambiente che segnala come nel trasporto locale ci sia un record di viaggiatori, nel senso un numero di viaggiatori sempre crescente, mentre in maniera inversamente proporzionale gli investimenti nel trasporto locale sono crollati, oltre a segnalare che a sud ci sono meno treni e sono più vecchi, mentre il nord e una parte del centro sfrecciano. E appunto c'è questo parallelo plastico che ci viene fornito: l'alta velocità Roma-Milano impiega meno di 3 ore per fare 577 chilometri, invece il treno da Siracusa a Trapani per fare 266 chilometri impiega 11 ore e 21 minuti. Questo appunto è sono i paradossi spazio-temporali delle nostre ferrovie. E allora passiamo anche in giro qua e là per cronaca, guardando dalla finestra. Oggi c'è nebbia, ma come sempre la nebbia è grave in Valpadana quando poi il cielo è sereno. Assaggio di primavera da nord a sud, caldo record in città e montagna, racconta Flavia Amabile, ma senza nessun compiacimento, perché sappiamo cosa significa ormai. Picco di 27 gradi a Torino, 22 in Sardegna. Pensate, 27 gradi a Torino, sotto le Alpi, effetto del phon, questo vento caldo del nord, ma oggi, da oggi arriva il freddo, vedremo. E allora c'è il settore agricolo, questa primavera anticipata e poi arriva il freddo, il settore agricolo teme il gelo dopo la rifioritura anticipata. Col diretti, ma nel 2018 furono colpite solo pesche e albicocche. Due anni fa, primavera ed estate, mitigarono i danni. Comunque c'è tutto uno sconvolgimento anche del circuito agricolo, che più o meno bisogna prenderne farne calcolo. Un vortice polare ha trattenuto le folate d'aria a bassa temperatura. L'esperto: Italia è tra i paesi più penalizzati dal cambiamento climatico, perché in mezzo al Mediterraneo allora soffre maggiormente. Sempre girando per la cronaca, Taranto & Company, parlavi di lavoro, Flex Silva resta tutto fermo e alla fine Mittal se ne andrà. La trattativa prosegue, ma a 3 giorni dall'udienza sul recesso del contratto non c'è intesa, deciderà il giudice. Ecco di cosa si sta discutendo: lo stato dell'arte, perché il colosso dell'acciaio franco-indiano insiste con condizioni inaccettabili, tanto pagherà per andarsene. A proposito di privilegi e casta, il caso, il Senato rivuole i vitalizi, sempre da Fatto Quotidiano, ma abbandona i lavoratori. Parliamo degli invisibili, ovvero sì, i collaboratori parlamentari che protestano. Ed è incredibile che nel Parlamento italiano, che dovrebbe essere in qualche modo il luogo più controllato e vissuto e visto dall'Italia, ci siano gli invisibili precari, pagati in nero e quant'altro. Mentre Palazzo Madama ripristina gli assegni, dei vitalizi. Casellati non ci incontra, dicono i collaboratori, gli invisibili, si vede che ha altre priorità. Questo è quello. Ma sempre una brutta pagina che la leggiamo dalla storia raccontata da Elisabetta Andrais del Corriere. Quei libri sul marciapiede abbandonati dalla scuola, la rivolta dei bimbi e dei genitori. A Milano una materna non riusciva più a gestire la biblioteca e quindi ha messo i libri per strada. Questo è messaggio brutto per i nostri figli, terribile in realtà. In un'ora sono stati raccolti dai genitori. Il comune annuncia un'indagine interna, i volumi che non servono innanzitutto devono essere messi a disposizione di altri, non già buttati. E ancora dalle pagine delle economiche del Carlino, riforma pensioni ai più giovani almeno 780 euro, questa è la proposta dei sindacati anche dalla prima del manifesto, un fotorichiamo, tavolo con CGIL e CISL Willi, gli esperti del ministro del lavoro Catalfo aprono assegno di garanzia, una piccola svolta per il sistema previdenziale, anche per evitare che i giovani dicono tanto la pensione noi non l'avremo mai. A proposito di economia, anche dalle pagine della Repubblica, guardiamo un po' come si muovono le banche. Tassi di interesse sotto zero, le banche si rifanno sui clienti. Oibò, non è nuova. Da Unicredit a Intesa San Paolo, gli istituti per recuperare i costi della politica monetaria della Banca Centrale Europea aumentano gli oneri sui conti correnti e sui depositi elevati, mentre l'online non è più gratis. E le misure, appunto tutti i rincari per i correntisti, nelle principali banche, vengono oggi esaminate proprio dalle pagine della Repubblica. Ma per fortuna che c'è Sanremo, perché il Carlino, che oggi dedica ampio spazio insomma all'arrivo del festival, ha un editoriale dal titolo "Perché abbiamo sempre bisogno di un festival? Meno male che c'è Sanremo, arma di distrazione di massa". Quindi Sanremo sempre funzionante, peraltro quest'anno con, come dice il Carlino con la sua foto di apertura, con il sistema adottato in Vaticano del doppio papa, in questo caso c'è appunto il conduttore principale Amadeus, il conduttore nell'ombra emerito Fiorello, San Fiorello, infatti dice il Carlino, il comico parafulmine alle polemiche contro Amadeus. E allora, per chi guarderà Sanremo a buona visione, noi invece guardiamo all'America, perché ci sono le primarie nell'Iowa, all'interno dei democratici, che sono molto importanti, perché c'è una tradizione che vi è ricordata da Giampiero Gramaglia del Fatto Quotidiano: Dem alla prova dell'Iowa, la vittoria vale la nomination, successa da Al Gore ad Obama. Come il Super Bowl, in America lo sport è sempre presente. I candidati puntano tutto sul caucus, ma per i conservatori non ha mai funzionato. Questo è quanto. Allora, notizie questa mattina che sono polemiche in Iowa, perché i caucus sono questi turni urne elettorali delle primarie. Polemica sul caucus in Iowa per ritardo dei risultati. Il Partito Democratico dello Stato ha riferito alla CNN che sta facendo il controllo di qualità sui risultati in arrivo e intanto avrebbe deciso di contare i voti a mano. Dimostrazione che la tensione è molto alta e che naturalmente questi ritardi fanno fantasticare in tanti. La TV ha ricordato che nel 2016 alla stessa ora erano già diffusi i risultati del 70% dei caucus, oggi invece solo il 25% dei dati sono pervenuti. I caucus dell'Iowa segnano il via alle primarie per sconfiggere Donald Trump. Ma qual è il problema? Che uno dei grandi favoriti è Bernie Sanders, socialista. E allora tutti parlano di questa vicenda, di questo personaggio, l'ottantenne o quasi ottantenne senatore di sinistra, che in qualche modo sovvertirebbe una tradizione americana ultraliberista sia da una parte che dall'altra. Giuseppe Sarcina, la lunga marcia di Sanders che gioca da outsider e punta alla base di Trump. C'è quella che ha bannato i democratici come gli operai dell'Oregon, perché Trump ha avuto delle promesse sociali più convincenti che non il rigore finanziario dei Dem. Ragazzi in coda e comizi da star per il senatore indipendente, e la cosa curiosa è che è tanto anziano il senatore, tanto giovani sono i suoi elettori. Ora potrebbe sfondare nella working class che votò il presidente. Lo slogan è "Welcome to the political revolution", solo bello da dire, benvenuti nella rivoluzione politica. Il tweet è un new deal verde per il cambiamento climatico, è più economico del nostro di non far, è molto più economico del nostro non far nulla, dice Bernie Sanders. E mentre aspettiamo anche noi dai flash internazionali i dati dell'Iowa, la stampa parla di un retroscena con Paolo Mastrolilli. Il piano di Kerr Kerry, ex segretario di Stato, per dare l'assalto alla Casa Bianca. Vuol sbarrare la strada Sanders alla convention. Successe già nel 68, quando la convention democratica rovesciò i risultati delle primarie per vincere un leader di centro. E successe dei scontri di piazza durissimi per tutti i ragazzi accampati fuori in attesa dei risultati di questa convention. Furono arresti e quant'altro, si cominciò la grande divorzio tra i giovani e il Partito Democratico. Paolo Mastrolilli, pare domenica John Kerry era nella lobby dell'hotel Renaissance Delivery di Des Moines. In una lista della televisione NBC lo ha sentito discutere al telefono l'ipotesi di candidarsi alla Casa Bianca, il suo timore che Bernie Sanders vinca le primarie e trascini il Partito Democratico verso il disastro, come ha fatto Corbyn con i laburisti britannici. Ovvero il disastro l'hanno fatto i laburisti. Comunque questa è l'interpretazione che dà Kerry. Il manifesto oggi, al di là del risultato che appunto ancora si attende, dà però un'intera pagina al culto socialista di Bernie Sanders in Iowa. Viaggio tra i sostenitori di Sanders in uno degli stati chiave per pronosticare le primarie. Ogni 4 anni l'Iowa diventa il centro del mondo, anticipando tutti gli altri stati per le primarie presidenziali. Tra i candidati democratici il favorito appunto è Sanders, senatore capace di risvegliare la passione socialista tra i più giovani, mentre domani dovrebbe arrivare il colpo di spugna sull'impeachment di Trump, assoluzione prevista per domani, quindi se la caverebbe molto velocemente. Secondo il manifesto. A proposito di elezioni, andiamo invece, torniamo in Europa perché ci sono le elezioni anticipate in Irlanda. Sabato 8 alle urne, la partita del centrodestra irlandese con lo Sinn Féin come terzo incomodo e il resoconto da Dublino. In un paese dove storicamente è stata la questione nazionale più che quella di classe a definire le geografie politiche, da decenni i due principali partiti che si contendono le elezioni sono di centrodestra, il Fianna Fáil e il Fine Gael. La divisione appunto che ha una divisione che ha le sue radici nella guerra civile di 100 anni fa, la sinistra appunto con che sta un po' alla finestra secondo l'analisi del manifesto, che ricorda che la scadenza naturale della legislatura era nel 2021, ma le elezioni erano nell'aria da tempo, e al suo momento i sondaggi danno in vantaggio il Fianna Fáil guidato da Michael Martin. Nella vicina Inghilterra invece c'è Boris Johnson che fa il duro: saremo il Superman del libero mercato, i negoziati post Brexit partono in salita, il premier inglese va allo scontro con l'Unione Europea. Peraltro oggi Repubblica, a proposito di Boris Johnson, ci segnala anche questo questa sua chiusura nei confronti di alcuni giornalisti nella pagina appunto dove ci sono le notizie dal mondo. Tiene fuori i giornalisti che lo criticano, anche qui non è un modello esattamente inedito. Polemica a Londra per la scelta di Johnson, che ieri ha selezionato un numero limitato di giornalisti per un briefing con il capo negoziatore britannico per i nuovi colloqui Brexit, David Frost. In Inghilterra, anzi nel Regno Unito, naturalmente gli attentatori lupi grigi o non lupi grigi, sono lupi solitari dell'ISIS, non fanno più notizie. Infatti anche la stampa a pagina 11 dà tra le altre notizie che l'attentatore di Londra radicalizzato in carcere, l'ISIS rivendica l'attacco, ma l'ISIS ormai può rivendicare, ma non gli frega più niente nessuno a quanto sembra. Johnson, difficile monitorare gli estremisti perché c'è una polemica, perché Johnson ha promesso di mandare a casa gli estremisti, ma non lo sta facendo, perché è più facile a dirsi che a farsi. Sì. Nel frattempo la Brexit ha già le sue prime guerre, sono guerre commerciali, guerre di pesca, perché a largo della Normandia siamo appunto nell'isola del Guernsey, Alderney e Sark, i francesi non possono più pescare. E quindi comincia a essere problemi territoriali anche di mari, allontanati scavi francesi, nuova guerra delle capesante a largo della Normandia, quindi di chi è il mare, non delle sardine evidentemente, ma di Boris Johnson o di Macron. Detto questo, sul Brexit sentiamo dalla viva voce di Laura Manrongiu, italiana che vive a Londra, come si è vissuto il primo weekend da extracomunitari all'interno del Regno Britannico. Come forse immaginerai, sui fatti non è cambiato niente, cioè non c'è niente di tangibile che è cambiato anche nella quotidianità. Le cose che ho notato durante il weekend, dopo il weekend, sono tutte emotive, cioè questo passaggio è stato accolto in maniera molto emotiva, sia dagli inglesi che appunto erano per il Remain, sia da quelli che hanno votato Leave, e sia dalla comunità di europei e anche non europei che c'è qua. Quali sono, come dire, i temi, gli argomenti più affrontati anche dalla stampa, insomma, o anche tra i cittadini? Tra i cittadini, legandomi sempre alla questione emotiva, c'è proprio il tema dell'inclusione, dell'apertura o della chiusura. Il fatto che questa decisione trasmetta una chiusura e quindi una non inclusione è la cosa che colpisce di più tutti quanti, perché comunque da adito, come ben sappiamo anche in Italia, no? Quando la politica era prima a fare discorsi di chiusura e anche di odio, da adito molto più facilmente a reazioni discriminanti, di odio. Ad esempio in una città a Norwich, nell'est dell'Inghilterra, in una council, che sono i palazzi popolari, è stato appeso un cartello all'ingresso che diceva che d'ora in poi è proibito parlare qualsiasi altra lingua che non sia inglese. E tu immaginerai che in una nazione che è multiculturale, non c'è niente da fare, lo è, questa cosa è comunque un atto abbastanza forte da fare, soprattutto in una council che è un palazzo popolare, quindi che comunque accoglie molte famiglie indiane, anche italiane, eccetera. Ci sono preoccupazioni per quanto riguarda le conseguenze in termini, che ne so, di economia o anche di diritti dei cittadini? Sì, ci sono preoccupazioni sull'economia e ci sono preoccupazioni sull'accesso ai servizi, ad esempio l'NHS, perché chiaramente prima qua da europeo bastava registrarsi come residente e si avevano tutti i diritti sanitari che anche gli inglesi hanno. Ci sono preoccupazioni che questo non ci sia più, ma non si sa perché fino appunto al 2021 non si sa, e soprattutto l'informazione non è chiara su quali sono le intenzioni, quali saranno le trattative, quindi c'è tantissima incertezza, c'è la preoccupazione, ma poi soprattutto tra gli europei, italiani, francesi, spagnoli, tedeschi, vince il vabbè, ma per noi non cambierà niente, e quindi è veramente veramente strano. Tu hai già accennato alle trattative, perché in realtà formalmente ci sono 11 mesi di transizione fino al 31 dicembre di quest'anno, e molto dipenderà anche da quali sono gli accordi che riusciranno a fare da un lato l'Unione Europea e dall'altro ovviamente il governo britannico. Ecco, Boris Johnson sembra voler andare verso anche uno scontro, una tensione, come dire, una strada del no deal cosiddetta. E voi, visto che tu appunto sei italiana, fino a questo momento avete dovuto fare cose, dovete avuto iscrivervi magari a sì. Qualche ecco, raccontaci un po'. Sì, per gli europei che vivono qua da anche solo da un anno, da sei mesi, insomma, per tutti quelli che si sono trasferiti qua prima del 31 gennaio 2020, c'è ancora la possibilità di fare richiesta per il, si chiama settlement status, quindi uno status che dimostra che tu paghi le tasse qui, vivi qui da più di sei mesi e ti permette di restare. Se tu sei qua da meno di cinque anni, ti danno il pre-settlement status, che dice ok, sei lì, devi raggiungere i cinque anni per avere questo status, però questo vuol dire che, ad esempio, se tu vuoi andare via per sei mesi, per più di sei mesi, e poi tornare, questo processo intermedio si interrompe e quindi il tuo futuro poi è abbastanza incerto. Però al di là di questo, diciamo che la possibilità di avere questo status è molto comoda, perché basta dimostrare che tu lavori e vivi qua e non devi fare nient'altro. Ecco, in futuro invece, per chi invece volesse da ora in poi, insomma, andare in Gran Bretagna, ho visto che ci sono restrizioni molto stringenti, come ad esempio per i lavori, diciamo, a bassa qualifica, quello di avere già un contratto di lavoro prima di recarsi lì per poter ottenere il permesso di soggiorno. Sì, che è praticamente impossibile, che poi è il modello australiano, no? Quello che loro dicono, al di là dell'economia, anche il modello di immigrazione australiano o americano, cioè tutti quelli che venivano qua anche solo per imparare la lingua cercavano un lavoro qua, non lo potranno più fare. Quindi ecco, l'ingiustizia, diciamo, nei nostri confronti da europei si sente più verso quelli che vorranno venire in futuro, perché insomma noi l'abbiamo potuto fare, no? Loro non potranno più farlo. Soprattutto avere un lavoro di bassa qualifica da prima è impossibile, soprattutto in una città come Londra, perché la concorrenza è altissima, devi fare colloqui di persona, è fantascienza, insomma. Potrebbe essere che come dire, qualcosa cambio comunque, il dibattito si rinfocoli per quanto riguarda la Scozia e l'Irlanda del Nord. Sì, decisamente. Infatti quello che poi si dice qua è che mal che vada si va in Scozia. Si dice un po' come battuta, però fa pensare che comunque potrebbe essere anche un nuovo scenario, ecco, per l'Europa e per la circolazione. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. E da Londra chiudiamo il nostro giro per il mondo con la Repubblica che si ricorda oibò del Venezuela, dove c'è un caso, una sorpresa dell'ultima ora. Sorpresa Maduro, apre al dollaro e Caracas risorge. Nasce il socialismo capitalista per aggirare l'embargo americano. Quindi in Venezuela le cose sono risolte. Questo ci dice la Repubblica, ovviamente con tutte le cautele del caso. In Cile invece, dal manifesto, sangue nelle strade, rivolta dentro e fuori gli stadi, rabbia e repressione dopo la morte di un attivista tifoso, ondata di proteste con altre 3 vittime. Quindi in questo caso il calcio che viene usato appunto come sfogo, come sfogatoio appunto per tutte le tensioni di questi ultimi mesi. E poi invece, cambiando scenario sempre dal manifesto, in Iraq nuovo premier, ma la protesta resta la stessa. Baghdad nomina Alawi, ma la mobilitazione popolare non si ferma. Mentre a proposito di piazze, in Egitto Al-Sisi svuota la piazza della rivolta, piazza Tahrir, lavori in corso, quindi una piazza di fatto sigillata. Tocchiamo anche, visto che oggi lo fanno vari giornali, il tema libico, perché c'è il rischio di promesse sotto ricatto appunto nel memorandum tra Italia e Libia. Modifiche d'azzardo le definisce il manifesto. E anche dalla Repubblica, patto sui migranti, la Libia alza il prezzo, nel rinnovo spuntano i finanziamenti per gestire 300.000 sfollati e nuovi centri. Nella pagina locale, oltre a tutto ciò che riguarda gli effetti del coronavirus, per esempio la Pelliconi, stabilimento molinese in Cina, chiuso a 12 giorni, ha già perso 200.000 euro, mentre nella Cina, lo ricordiamo, c'è la Hyundai, il colosso multinazionale dei motori, è bloccata, mancano, non lavora più perché mancano i pezzi per fare le macchine. Questo è gli elementi, diciamo, di cui siamo partiti, la grande crisi economica che si abbatterà, avrà dei riflessi pesantissimi, forse ancora più dello stesso virus. Ma la cronaca locale invece vede iscrizioni, siamo nelle scuole, boom degli istituti tecnici, dice il Resto del Carlino, che dice anche lunga sulla ripartizione e mobilità sociale in questo paese. Scuole superiori, vola l'Aldini, esuberi anche per i licei scientifici, si fermano i classici, nuove regole al Minghetti. È curiosa la cosa, perché mancando le aule i professori rimangono fermi e ruotano gli studenti nelle aule. Evidentemente è più facile spostare 20 persone piuttosto che una, ma questo è sono i paradossi di una scuola che evidentemente fatica a rispondere al bisogno di istruzione del paese. Ne abbiamo parlato in apertura della nostra Radio Zanardi, ne parla il Corriere di Bologna in prima pagina. Aggressioni al pronto soccorso, adesso si muove anche il governo. Vertice tra Ausl e sindacati. Il confronto con i sindacati, le misure allo studio e soprattutto il governo che si muove. Dopo l'ennesimo episodio, la notte tra sabato e domenica, quando al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Orso un clochard ha aggredito e ferito delle 6 persone, tra personale sanitario e vigilanza, si cerca la strada per contrastare i fenomeni di violenza, come dice il sottosegretario della salute Sandra Zampa, che garantisce la volontà di fare presto nell'iter di approvazione della legge. Questo è quello che racconta il Carlino. Mentre in pagina 8 abbiamo Salvini che torna al pilastro, ora meno spacciatori. Evidentemente Salvini è meglio di Cristo, perché Cristo bastava toccargli una vespa e che guarivi dalla peste. Salvini con un citofono ha battuto lo spaccio di mafia, questo è davvero importante. Lasciamo perdere Salvini e lasciamo al suo destino. Mentre la prima pagina del Carlino Bologna ha una presa di posizione di Valerio Baroncini sulle vicende della radiofonia bolognese, che sappiamo sono in tempesta. Radio Città del Capo rotta la tregua, trattative nel pantano. Sappiamo che è stato defenestrato il direttore Riccardo Tagliati dalla dirigenza romana della famiglia Truce. Quando si dice che la morte o il ferimento di un giornale o di una radio è la morte o il ferimento del dibattito democratico, non è una dichiarazione scontata nell'autodifesa di una categoria che molti politici hanno chiamato, senza conoscere i numeri né condizioni di lavoro, forse nemmeno senza aver mai letto molti giornali, casta. La vicenda del capo è esemplare non solo per i colleghi coinvolti, se vanno tutelati, va difesa con ogni mezzo una voce sensibile diversa, indipendentemente con cui ad esempio sono stati anche nei confronti accesi talvolta, appunto, dal Carlino e la Città del Capo. E questa era anche l'ultima notizia, che viene corredata anche dall'ultima intervista, perché giovedì prossimo 6 febbraio in Cineteca Bologna verrà proiettato in anteprima nazionale The Milky Way, Nessuno si salva da solo, il nuovo documentario di Luigi Dalife, che racconta la frontiera tra Italia e Francia sulle Alpi occidentali, luogo di turismo ma anche unica rotta migratoria rimasta per molti migranti che cercano di attraversare i confini. Noi abbiamo intervistato il regista e sentiamo le sue parole. Con questo noi vi salutiamo e risentiteci domani sempre alla stessa ora. Ciao a tutti. Mi piace raccontare quello che accade sui confini, perché insomma reputo quei luoghi in cui si manifesta la violenza del potere, ma in cui si manifesta anche la resistenza al potere. E poi insomma mi piace indagare quello che sono i territori, insomma, dove sono presenti confini e frontiere, e questo è stato un po' anche poi quello che è stato l'inizio del ragionamento e dell'idea dietro poi a quello che è stato il progetto di The Milky Way. Stiamo parlando appunto del confine delle Alpi occidentali, insomma, quella che è stata definita dai media mainstream nell'ultimo paio di anni come una nuova rotta dell'immigrazione, sostanzialmente insomma quella che è stata il processo di chiusura, di blindatura dei confini interni all'Unione Europea, in particolare insomma sulla rotta delle Alpi Marittime, quindi soprattutto su Ventimiglia, ha portato naturalmente i flussi migratori a indirizzarsi verso altre strade, verso altre direzioni, e questo è quello che è accaduto almeno da un paio di anni a questa parte, appunto sul confine e sulla frontiera occidentale, ovvero sostanzialmente quella che dall'alta Val di Susa appunto va in Francia. Una rotta dell'immigrazione che naturalmente in realtà di nuovo non ha assolutamente nulla, perché quella lì, quei territori lì sono attraversati insomma da millenni, mi verrebbe da dire, da fenomeni migratori, e negli ultimi almeno nell'ultimo paio di centinaio di anni insomma hanno visto quegli stessi territori una forte migrazione di massa, però questa volta di italiani che clandestinamente provavano a raggiungere la Francia su quelle stesse montagne e su quegli stessi valichi alpini, che oggi invece sono attraversati da migranti di origine africana. E questo è un elemento che mi ha colpito, questo parallelo che fai tra ieri e oggi, che purtroppo è anche un parallelo di morte, perché si moriva tanto ieri quanto oggi. Sì, assolutamente, anzi addirittura insomma naturalmente se prendiamo come periodo di riferimento diciamo quello che è l'immediato dopoguerra, del secondo dopoguerra, insomma quindi 50-60 anni fa, si moriva addirittura ben di più rispetto a quanto purtroppo comunque si muore anche oggi. Basti pensare ad esempio che nel 1947 il comune di Giaglione in Alta Val di Susa chiedeva aiuto e sostegno alla prefettura di Torino, perché di fatto non c'era più spazio nel cimitero cittadino per seppellire i morti di quei clandestini italiani, inizialmente soprattutto del nord Italia, piemontesi e veneti, e poi successivamente del sud Italia, calabresi e siciliani, che appunto cercavano una vita, di prendersi una vita migliore, cercando appunto di raggiungere clandestinamente la Francia. È anche insomma poi appunto il punto di partenza, no? Da cui sono partito, da cui siamo partiti, perché crediamo sia necessario, sia importante non perdere perdere la memoria, ma anzi coltivarla, e coltivarla soprattutto poi attraverso i gesti concreti, gli esempi di oggi di chi, come appunto su quelle montagne, in quel territorio, continua insomma a portare sostegno, continua a portare aiuto ai migranti che appunto, al di là del colore della pelle, perché sostanzialmente un po' anche quello che emerge forte è che, così come in mare, anche in montagna nessuno si lascia da solo, nessuno si abbandona, tutti si aiutano. Questo è anche quello che stiamo vedendo con i nostri occhi. Col tuo lavoro sembri suggerire anche una lettura diversa di quello che è il confine, no? Che è una sorta di dogma dello Stato-nazione, ma insomma può anche essere un'imposizione totalmente discrezionale, visto che sia da un versante che dall'altro poi spesso si ritrovano le stesse culture che sono state anche artificialmente separate. Sì, assolutamente, questo è un altro elemento forte che, se vogliamo, già emergeva all'interno di Binghead sotto il confine, il mio precedente lungometraggio, che ho ritrovato comunque anche appunto su questo territorio di frontiera e di confine, perché sostanzialmente questo confine, il confine occidentale, è un confine, una frontiera tutto sommato abbastanza nuova, che nasce subito dopo l'unità d'Italia, ma che in realtà poi viene ridefinita a partire dal 1947 con il Trattato di Parigi, e in cui questa linea immaginaria viene tracciata e sostanzialmente va a dividere quella che possiamo definire tranquillamente come un'unica popolazione montanara, e che al di là dei confini e delle frontiere imposti dagli stati ha continuato a mantenere degli usi appunto millenari, la transumanza, i legami familiari, il commercio, tutto questo non si è mai interrotto appunto nonostante i confini tracciati dagli stati. E poi, come dicevi tu appunto, chi vive dal lato orientale parla lo stesso dialetto del lato occidentale. In questo senso quel territorio è un territorio molto particolare, perché sicuramente quel confine viene ben poco compreso e soprattutto considerato dalla popolazione che lo abita. Il tuo documentario The Milky Way, perché? La Via Lattea è il nome del grande comprensorio sciistico che si trova appunto nell'Alta Val Susa, nei territori a cavallo tra Italia e Francia. Sono oltre 400 chilometri di piste che appunto si sviluppano tra Italia e Francia e che hanno come slogan sciare senza confini. E quindi insomma è stato un po', mi ha fatto venire anche un po' fuori una risata amara, perché quelli che sono territori di frontiera sono chiaramente anche territori di turismo in cui la gente va a divertirsi, va insomma a rilassarsi, va a passarsi una giornata, e in cui sostanzialmente il confine viene attraversato e calpestato quotidianamente decine di volte senza neanche ormai farci caso. Chi ha il colore della pelle giusto, diciamo, mettiamolo così, può passare tranquillamente; chi invece ha il colore della pelle sbagliato può invece morire, e ci muore in realtà, perché sono stati già accertati almeno 4 morti. E quindi insomma questo contrasto così forte di chi insomma percorre la Milky Way, percorre la Via Lattea per cercare, per prendersi una vita, per prendersi un futuro migliore, avviene comunque in un territorio turistico dove la frontiera, mi verrebbe da dire, esplicita quello che è il suo volto razzista e anche classista, e quindi sicuramente questo è uno degli elementi importanti. Questo programma è stato offerto da... Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.